fare l'amore in macchina, si sa, è un'attività difficile e pericolosa, non tanto per l'inevitabile mal di schiena di cui molti, specie se ancora nel fiore degli anni, possono non curarsi, quanto perché è sempre possibile l'intervento di qualche zelante custode della legge e della morale, con conseguente denuncia all'autorità giudiziaria e successiva esemplare condanna per atti osceni in luogo pubblico. Si sa che è inutile in questi casi eccepire che nelle fusioni che si scambia una coppia non c'è mai niente d'osceno, o che i luoghi in cui si parcheggia l'automobile in queste evenienze di solito sono tutto tranne che pubblici. La formula di rito è quella e non ci si scappa. Lo ha confermato a scanso d'equivoco la Suprema Corte, che respingendo, come si apprende da una delle notizie in breve del nuovo manifesto formato Lenzuolo, è il numero del 6 aprile, respingendo il ricorso di una lucciola brasiliana sorpresa a consumare in automobile in un luogo appartato ma non lontano dalle abitazioni, ha stabilito che non serve la presenza di un pubblico curioso per commettere un atto osceno ed essere così condannati. Basta operare in un luogo che, citazione, pur non essendo né pubblico né aperto al pubblico, per sua natura, conformazione e destinazione sia comunque tale da consentire ad un numero indeterminato di persone la visibilità di ciò che in esso avviene. E tale è una macchina in sosta, secondo la Suprema Corte, tale è una macchina in sosta lungo la strada, benché la via sia deserta, appartata e per giunta sia già scesa la notte. Dal punto di vista della precisione giornalistica, la notizia, va detto, non è un capolavoro. Non indica né quando né dove sia accaduto il fatto e rende così impossibile individuare la Suprema Corte che l'ha sanzionato. Dal fatto che la lucciola in questione sia definita come brasiliana si potrebbe dedurre che il tutto è avvenuto in Brasile, ma siccome non c'è chi ignori come quel grande e poverissimo paese abbia per sua disgrazia una certa tendenza all'esportazione di manodopera di questo tipo, neanche di questo possiamo sentirci sicuri. Può darsi benissimo che quell'importante pronuncia giurisprudenziale sia stata emessa più vicino a noi, e di fatto anche la nostra Corte di Cassazione si è solito attribuire, non ho mai capito se sul serio o per ceglia, l'aggettivo di suprema. Il problema, d'altronde, è assolutamente irrilevante. La precisione giornalistica è una gran bella cosa, ma certe volte se ne può fare a meno. Che una corte qualsiasi, suprema o no, decida che dal punto di vista di un possibile reato un luogo possa essere pubblico, anche se pubblico non è, nel senso che per natura, conformazione e destinazione non c'è nessuno, tranne si intende i diretti interessati, è una notizia, pur imprecisa, di grande valore filosofico. Risolve di un colpo solo annose questioni gnoseologiche e cognitive. Ricorderete tutti, no, il dibattito sull'albero che cade nella foresta. Se non c'è nei pressi nessuno con le orecchie tese a captarne lo schianto, quella caduta si può dire che fa rumore o no? Non sono mancati i dotti che hanno identificato l'essere, anzi l'esse in latino che suona meglio, con il percepi, con l'essere percepito. Credo sia stato George Berkeley, nel trattato sui principi della conoscenza umana, a sostenere che non è possibile che le cose possano avere una qualunque esistenza fuori dalle menti o dalle cose pensanti che le percepiscono. Certo, se poi gli chiedevano se allora quando uno usciva da una stanza il tavolo che c'era contenuto spariva di colpo, e lui doveva rispondere che no, che il tavolo continuava a esistere benissimo perché a percepirlo c'era comunque la mente divina. Ma visto che oltre che il filosofo di mestiere faceva il vescovo, non poteva che rispondere in quel modo. E visto che di mestiere fanno i giudici, anche i componenti di quella non definita Suprema Corte non potevano in fondo che pronunciarsi come si sono pronunciati. E probabilmente si saranno resi anche conto anche loro della contraddizione in cui si cacciavano, scrivendo nero su bianco che un luogo può essere considerato pubblico anche quando in buona sostanza pubblico non è. Ma che altro potevano fare? Se ci si mette a distinguere il reato virtuale da quello effettivo, e non la si finisce più. Quello che conta dal punto di vista di una Suprema Corte sono le prescrizioni del codice, i divieti che stabiliscono. Un divieto è un divieto e non si può trasgredirlo impunemente. Se due si mettono a fare l'amore in macchina, sanno che per quanto l'area di parcheggio sia buia, deserta, remota e scarsamente accessibile, qualcuno potrebbe sopraggiungere. sanno quindi di poter commettere un reato e se anche per pura fortuna questo reato non l'hanno commesso, non glielo si può mica lasciar passare liscia, no? Non hanno dato fastidio o scandalo a nessuno perché non c'era nessuno a cui dare fastidio o scandalo, tranne la gente del buon costume che li ha beccati, ma questo è un altro paio di maniche. Ma un divieto l'hanno comunque infranto. E se ci mettessimo a discettare sulla logica dei divieti, se ci volessimo voler decidere noi, indipendente dagli organismi preposti, quando vi si viola e quando no, diventeremmo in questo fatto dei pericolosi avversori di un ordine pubblico che appunto sul rispetto di quei divieti si fonda. E anche questo si sa è severamente vietato.